Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Introduzione alla nona notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. Notte nona. Aveva ormai la secca terra mandata fuori l'umida ombra della scura notte, e gli vaghi uccelli, sopra li fronzuti rami degli diritti arbori, negli lor nidi chetamente posavano, quando l'amorevole e onorata compagnia, posto da parte ogni noioso pensiero, al solito luogo si ridusse, e poscia che con lento passo furono fatte alquante danze, la signora comandò che il vaso fosse recato, e postovi dentro di cinque donne il nome, la prima che uscì fu Diana, l'altra Lionora, la terza Isabella, la quarta Vicenza e la quinta Fiordiana. Ma prima che dessero principio al favoleggiare, volse la signora che tutte cinque, con i loro lironi, cantassero una canzonetta, le quali con lieto viso e con angelico sembiante in tal maniera dissero: «Sconsolate erbicine, dov'è il valor, dov'è la gloria vostra e il gentil sguardi della donna nostra? Ahimè, smarrito è il lume. Anzi, il bel sol ch'ogni altro discolora, che per divin costume ci facevan gioir ad ora ad ora. E la nobil sembianza dolcemente allargar agli occhi il freno. Fallace speranza, come amor nai del bel viso sereno, in tutto privi e sconsolati a pieno». Non senza qualche acceso sospiro fu ascoltata l'amorosa canzone, la qual forse d'alcuno penetrò le radici del cuore, ma ciascuno il suo segreto amore dentro nel petto nascosto ritenne. Fine dell'introduzione alla nona notte. Registrazione di Roberto Cofini.